So I'm great Chiwanuka from Katikam Parish, Kasanariwero Diocese. Mi chiamo Gratti Chuanca e faccio parte della parrocchia di Katkum. Ho 3 bambini e sono sposata. Quando ho iniziato a lavorare con Wekembe, avevo solamente una piccola fattoria e una casa che era molto danneggiata. My first loan, it was 100,000. By then, we had not yet had enough money. Ho ottenuto un primo prestito di 100 sterline ugandesi, equivalenti a 40 euro, e con questo denaro sono riuscita a comprare semi e materiali per la mia piccola fattoria. Il secondo prestito che ho ottenuto ammontava a 80 euro, che ho investito coltivando caffè e banane. Questa attività mi ha dato un reddito che mi ha permesso di sistemare la casa e di costruirne il tetto. Il mio ultimo prestito è stato molto grande. Mi hanno dato circa 250 euro e con questo denaro ho potuto aprire una piccola farmacia. Con il reddito della farmacia posso così ripagare il mio prestito. Quindi, grazie al progetto Wekembe, ho potuto ricostruire la mia casa, ampliare la mia fattoria e aprire una farmacia che mi permette di mantenere la mia famiglia. That's how I'm headed to pay it back.